Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi un'altra puntata veramente imperdibile del nostro programma, nella quale vi forniremo dati freschi e molto interessanti sulla nuova emigrazione italiana, numeri che testimoniano sia un forte incremento degli espatri nel 2009, sia una tendenza sempre più marcata dei giovani a cercare lavoro al di là delle Alpi. Ve li racconteremo tra poco nel notiziario, nel corso del quale intervisteremo pure un ricercatore italiano emigrato che dopodomani sarà premiato alla Casa Bianca da Barack Obama, un'altra punta di diamante che l'Italia si è lasciata scappare. Ma oggi al centro della puntata ci sarà una storia davvero paradigmatica che ci farà comprendere a fondo cosa significhi lavorare nel mondo dello spettacolo e della cultura nel bel paese. Quando lo ascolterete probabilmente vi chiederete: ma dove siamo finiti? Io arrivo in Francia grazie ad un maestro americano conosciuto in uno stage a Firenze, che mi dice proprio papale, guarda, se vuoi fare la ballerina e formarti seriamente devi andartene dall'Italia. Bene. Vai a Parigi o a New York. Quindi, incoraggiante come consiglio, no? Molto incoraggiante. Elena Ciavarella, 33 anni, è una ballerina, vive a Parigi. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. Impennata di immigrazioni dall'Italia verso l'estero nel 2009, lo rivela l'Istat nelle statistiche sui trasferimenti di residenza. Secondo l'ente statistico, lo scorso anno ben 80.597 nostri connazionali si sono cancellati dall'anagrafe, 20.000 in più rispetto al 2008, quando a emigrare furono tra gli altri 6.500 laureati. Secondo la stessa indagine, i nostri laureati prediligono l'Europa. Uno su cinque tra chi espatria sceglie la Gran Bretagna, a seguire Germania, Svizzera, Francia, Stati Uniti. Sulla base di questi dati, Giovani Talenti ha stimato una perdita miliardaria per il sistema Italia in termini di capitale umano che se ne va, costo compreso per i soli laureati tra 851 milioni di dollari se ci basiamo sui dati Istat e quasi 6 miliardi se consideriamo la recente ricerca di Confimprese. Tutti i dettagli la prossima settimana. Che l'esodo verso l'estero stia assumendo contorni notevoli, soprattutto tra i giovani, lo rivela pure un sondaggio del magazine online jobmeeting.it, condotto su oltre 1000 candidati in cerca di impiego. Il 95,3% di loro ha dichiarato di aver pensato o progettato di emigrare per lavoro. Quasi uno su quattro non intende più far ritorno. Il fenomeno dell'emigrazione non risparmia i medici. Secondo il segretariato italiano dei giovani medici, sempre più laureati in medicina, soprattutto delle regioni del centro-sud, stanno espatriando per far fronte alle difficoltà di trovare impiego nelle regioni sottoposte ai piani di rientro, paesi di destinazione Inghilterra, Francia e Germania. I giovani in Italia hanno il problema di trovare lavoro e purtroppo non riescono a trovarlo, così il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Per il 44esimo rapporto Censis, i giovani hanno avvertito più degli altri gli effetti della crisi. Sarà premiato lunedì alla Casa Bianca dal presidente americano Barack Obama Alfredo Fontanini, vincitore insieme ad altri due connazionali, Eugenio Culurcello della Yale University e Gianluca Iaccarino della Stanford, del prestigioso premio PCASE, il più alto riconoscimento che il governo federale assegna a scienziati e ingegneri all'inizio della carriera. Fontanini, 39 anni, è assistant professor alla Stony Brook University di New York, così ci spiega i motivi del riconoscimento. Per degli studi che sto facendo sul sistema gustativo. Sono degli studi mirati a capire particolarmente come l'aspettativa di un gusto modifica il modo in cui percepiamo e il modo in cui il nostro cervello elabora questo gusto stesso. In queste settimane in Italia si sta facendo un gran parlare di ricerca e cervelli in fuga. Tu come la vedi? Da un lato sono molto legato e grato all'Italia per l'opportunità che mi ha dato di venire fuori e di cominciare a costruire la mia carriera scientifica. Ovviamente dall'altro il fatto che non vengano date uguali possibilità di fare uguali carriere in Italia è abbastanza toccante, ecco. E negli Stati Uniti? Negli Stati Uniti devo dire che ho trovato un ambiente molto facile, facile da leggere e molto depoliticizzato, molto inclusivo. 5 campus dedicati ai giovani talenti per trattenere i cervelli italiani e attirare quelli stranieri. Nascono martedì a Milano gli Expo College, 5 strutture legate all'evento del 2015, dove potranno alloggiare gli universitari che parteciperanno all'Expo. Stefano Blanco, direttore della Fondazione Collegio dell'Università Milanesi, che gestirà il progetto. Il fattore di promuovere la cultura del college, la cultura del campus, è un plus importante per le persone che vogliamo attirare per organizzare l'Expo e poi per farlo vivere direttamente nel 2015. Che tipo di profilo avranno questi universitari? Avranno un profilo intanto di essere degli under 30, di essere delle persone di cultura universitaria che vengono a Milano perché ritengono che Milano possa dare a loro un contributo importante nella loro formazione o anche nella loro prima esperienza di ricerca, di dottorato o di lavoro, quindi direi persone dallo spirito internazionale e che hanno voglia di misurarsi con una metropoli che sta crescendo e si sta preparando all'Expo. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero, oggi vi segnaliamo. Un Financial Monitoring Officer lo cerca la European Investment Bank per la sede in Lussemburgo, richiesta la laurea in finanza o legge, scadenza per i CV 2 gennaio, info su eib.org. Un direttore della campagna di sviluppo a New York lavorerà per la ONG Action Against Hunger, scadenza per i CV 31 dicembre, info su actionagainsthunger.org. E infine un capo laboratorio alla International Atomic Agency di Vienna, richiesto un PhD in genetica, scadenza per i CV 12 gennaio, info su recruitment.iaea.org. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta dopo qualche mese a Parigi. Nella Villa Lumière, la cultura sembra avere ancora un peso importante, come andiamo a scoprire con la protagonista della settimana. Nome. Elena. Cognome. Savarella. Età. 33. Città di origine. Massa Carrara. Studi. Una laurea in storia del cinema, un diploma di stato di insegnante di danza contemporanea. Anno in cui hai lasciato l'Italia. Nel 96 e nel 2003. Per andare dove? A Parigi. Perché? Perché volevo vivere del mio mestiere. Quale lavoro svolge attualmente? La ballerina. Dove? In Francia. Tornerai? Non lo so. Mi sono rotto, io mi sono rotto. Non ho più voglia di abitare lo stivale, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese, poi mi rimetto, tanto il mio lavoro è inutile, diciamo futile. Daniele Silvestri, Precario è il mondo, per introdurre la storia di Elena Ciavarella. In Italia gli artisti sono considerati come dei saltimbanchi, dei bohemien romantici e senza voglia di lavorare. Io stessa mi sono dovuta laureare per poter rispondere qualcosa di concreto a tutti coloro che mi chiedevano per la seconda volta: ma tu che lavoro fai? Dopo che io avevo già risposto una prima volta: ma la ballerina. Elena, oltre 2000 anni di storia e cultura per arrivare fin qui. Questa è l'Italia 2010, un paese che dovrebbe, condizionale d'obbligo, essere il centro culturale del mondo. Come te lo spieghi questo, chiamiamolo pure imbarbarimento? Beh, guarda, dopo aver viaggiato molto mi verrebbe da dire che l'Italia è troppo bella e che questo è proprio il nostro problema, che è il bel paese, che credo che abbiamo una gran parte di responsabilità in questo imbarbarimento, nel senso che viviamo di rendita di un paese pieno di cultura, bello, dove si vive bene, si mangia bene, ci si diverte e ci si accontenta. Elena, cominciamo dalla tua storia. Hai avviato la tua formazione in danza classica e moderna in una scuola privata di Massa Carrara. Che ricordo hai di quell'esperienza e soprattutto in Italia si insegna l'amore per la danza? Beh, è un bel ricordo sicuramente, insomma se faccio la ballerina oggi è anche grazie alla formazione che ho avuto nella mia città. L'amore per la danza si insegna, sì, anche se è un amore un po' retrogrado, un'immagine della ballerina un po' arretrata, quella che non mangia, che fuma 200 sigarette, che soffre, che non ha soldi, che vive di gloria. E il cui lavoro, diciamo, non esiste perché in realtà fa un altro lavoro. Tu scrivi, in Italia non c'erano molte scuole che insegnassero danza contemporanea. Le scuole statali, le accademie sono pochissime. Prepararsi per una carriera professionale è molto difficile. È ancora così? E soprattutto in Francia è così? Non sono molto informata sulla questione scuole in Italia. Penso non sia cambiato molto, almeno per quanto riguarda le scuole statali. In Francia ogni comune ha un conservatorio dove si può studiare danza, musica e danza classica e contemporanea. Poi ci sono i conservatori nazionali superiori dove insomma ci si può diplomare, per cui sì, la situazione è abbastanza diversa, ci si può formare molto più facilmente. A soli 19 anni tu fai la valigia e parti per Parigi per studiare danza contemporanea al conservatorio di Boulogne. Come ci arrivi? Con una selezione? Sì, guarda, io arrivo in Francia grazie ad un maestro americano conosciuto in uno stage a Firenze che mi dice proprio papale, guarda, se vuoi fare la ballerina e formarti seriamente devi andartene dall'Italia. Bene. Vai a Parigi o a New York. Quindi, incoraggiante come consiglio, no? Molto incoraggiante. Quindi decido di partire, vado a Parigi e là conosco una ballerina italiana che studiava al conservatorio che mi dice perché non fai l'audizione, quindi faccio un'audizione per essere ammessa, sono ammessa e studio un anno al conservatorio danza contemporanea. Com'è l'impatto con il mondo della danza in Francia? Perché, come scrivi tu, in Francia l'arte ha un posto importante? Perché gli artisti sono tutelati, perché l'attività culturale è molto attiva, quindi l'impatto è stato forte, soprattutto per l'immagine che avevo, ti ripeto, della ballerina senza soldi, che soffre, che vive di gloria. In realtà mi sono resa conto che invece il mestiere della ballerina è un mestiere vero. Però tu un solo anno dopo torni in Italia e ti iscrivi all'università. Per fare cosa? Ma soprattutto perché questa improvvisa, diciamo pure, retromarcia? Ti direi per fare la brava ragazza. Sentivo una grossa pressione familiare, i miei volevano che studiassi, sottolineo studiassi, in realtà stavo studiando, però diciamo fare degli studi veri, quelli intellettuali, no? Carriera universitaria. per cui ho deciso di tornare per preparare un vero mestiere, per preparare il mio futuro, no? Una specie di ripiego, insomma, fa un po' male sentirlo, ma qual è il bilancio di questa esperienza universitaria? Beh, positivo, nel senso che ho comunque imparato un sacco di cose, che ho studiato. Per quanto riguarda proprio l'ambiente universitario, non l'ho mai vissuto al 100% perché ero pendolare, in ogni caso continuavo la mia attività di danza, insegnavo e studiavo contemporaneamente. Però diciamo che non ho sempre avuto una grossa difficoltà con l'ambiente universitario, la lobby, non so, discepoli del professore, quelli che gli stavano intorno per avere eventualmente un master. I famosi discepoli, ecco, in questo ambiente universitario un po' chiuso all'italiana. Contemporaneamente comunque cominci a insegnare danza e prosegui la tua formazione con stage sia in Italia sia in Francia, e cominci anche la tua carriera di ballerina lavorando a Firenze e a Roma. È facile avviare una carriera come ballerina, soprattutto di danza contemporanea, in Italia? No, non è facile, innanzitutto perché le compagnie sono poche e i ballerini tantissimi, secondo perché ci sono pochissimi soldi, non c'è una politica culturale solida, per cui quasi tutti i ballerini, ad eccezione di pochi, che sono quelli che lavorano nelle grandi strutture, che sono pochissime, sono costretti ad insegnare e a fare altro, quindi avere un mestiere parallelo. E nel 2003, conclusa la laurea, torni a Parigi con un contratto di un anno per un musical. Da allora non sono più tornata, scrivi a giovanitalenti@radio24.it. Come torni a Parigi? Come vieni selezionata per questo musical e come anche il reimpatto con la capitale francese? Beh, guarda, io in realtà ho sempre mantenuto il contatto con la Francia dalla prima volta che sono partita, quindi partivo regolarmente appena avevo un po' di tempo per andare a studiare, per fare degli stage, per fare delle audizioni, per cui nel 2003, appena mi sono laureata, ho avuto questa opportunità, sapevo che c'era un'audizione per un musical, conoscevo il coreografo e mi piaceva un sacco, quindi ho deciso di partire, ho fatto la selezione, sono stata presa ed è stata un'opportunità, insomma, importante per me perché era un contratto lungo che mi ha permesso di fare le valigie, di prendere una decisione definitiva e dirmi ok, adesso vado e non torno. Un passaggio importante: ho fatto la selezione. Questo è un passaggio importante perché all'estero funziona anche un po' così: si fa una selezione e se si è bravi si viene presi, è corretto? Funziona quasi solo così. Uno fa un'audizione con 300 persone e se è bravo viene preso. Sì, viene assunto. Da 7 anni ti sei reinstallata nella capitale francese, dove lavori come freelance e hai creato tu stessa, pensate, una tua compagnia di balletto. Ma andiamo con ordine. Si vive in Francia di cultura? Raccontaci anche questo sistema molto particolare dell'intermittence du spectacle. Sì, in Francia si vive. Appunto, lo statuto dell'intermittenza è uno statuto molto particolare che è stato creato appositamente per gli artisti, per cui lo Stato sussidia, diciamo, dando un aiuto finanziario ed economico agli artisti, che non è gratuito, nel senso che uno ne ha diritto quando lavora e non quando non lavora, quindi non è assolutamente gratuito, e però ti permette appunto di vivere il tuo mestiere e di non essere obbligato a fare dei lavori, a fare il cameriere in un ristorante. Esatto, nei periodi di disoccupazione legati appunto alla professione non si va a fare il barista, si continua a lavorare, ci si continua a concentrare sul proprio lavoro artistico. Ed è stato facile in Francia avviare una tua compagnia di balletto? In Italia sarebbe stato possibile? Avviarla è stato facilissimo, nel senso che creare la struttura è molto semplice, è un'associazione, quindi non ci sono state grandi difficoltà. Quello che è più difficile poi è ottenere delle sovvenzioni, degli aiuti finanziari, però è più facile che in Italia, nel senso che le cose non sono chiare. Tu sai che per avere i soldi per un progetto devi fare determinate cose, tu sai i passi che devi fare, poi è difficile ottenerli, però perlomeno sai che cosa devi fare. In Italia è tutto così, fumoso. In aria, sì. Elena, da un po' di tempo ci hai scritto, stai cercando di tornare in Italia. Non so cosa dovrebbe cambiare per poter tornare. Mi piacerebbe moltissimo contribuire allo sviluppo della danza nel nostro paese, portare l'esperienza mia e di altri bravissimi ballerini all'estero, ma ogni volta che torno trovo un paese completamente arretrato. Denunci in una email a giovanitalenti@radio24.it. Un anno fa hai scritto un progetto e hai cominciato a proporlo anche qui. Con quali risultati? Praticamente nulli, un sacco di parole, sì bello, perché no, però non ci sono soldi. Se vuoi farlo, se ti puoi sponsorizzare da sola, con piacere, insomma, quasi che ti fanno un piacere a farti lavorare, no? Tante pacche sulle spalle, ma poi non ti conosciamo, sei giovane, eccetera, eccetera. Tu definisci l'Italia un paese dalla mentalità provinciale, con un modo di agire dalla superficialità disarmante. In Francia, spieghi, esistono delle regole rispettate da tutti che funzionano, qui invece impera una mancanza totale di professionalità. Allora, dove finiremo? Questa è la domanda che sorge spontanea. Guarda, non lo so, in realtà non ho una risposta a questa domanda. E ci piacerebbe dartela, ma non ce l'abbiamo purtroppo neanche noi. Ma almeno adesso in Francia, quando ti chiedono che lavoro fai, puoi rispondere con orgoglio: la ballerina. Ah sì, assolutamente. assolutamente. Mi ci è voluto un po' di tempo per assumermi io stessa come danzatrice, però sì, sì, in Francia non mi rispondono qual è il tuo vero mestiere o allora ci vediamo in televisione. In generale quasi tutti, no, le persone sanno cosa significa essere una danzatrice, essere un antiamiton di spettacolo. Sono contento per te. Elena, domanda diritto. Come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? Cosa cambieresti e come? Cambierei principalmente la mentalità delle persone, che trovo che sia molto provinciale, un paese dove si dà importanza alle cose che non ne hanno, e penso che abbiamo appunto una grossa responsabilità anche nella situazione in cui ci troviamo, per cui la mentalità delle persone, un po' più di rabbia, un po' più di determinazione, un po' più di nazionalismo anche, però nel senso buono della parola, che è quello che hanno per esempio i francesi. Noi viviamo di rendita e pensiamo che questo duri in eterno. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Elena Ciavarella, 33enne ballerina espatriata in Francia. Elena è giunta a Oltralpe, dove aveva già studiato danza contemporanea all'età di 19 anni, dopo una laurea in cinema, musica e teatro. Ha provato a farsi strada nel bel paese insegnando danza e lavorando come ballerina, ma nel 2003, forte di un contratto per un musical, è partita definitivamente per Parigi, da dove non ha fatto più ritorno. In Francia, Elena ha creato una sua compagnia e lavora come freelance per altre compagnie di ballo. Grazie al sistema dell'intermittence du spectacle può concentrarsi sul suo lavoro artistico. Soprattutto in Francia nessuno si stupisce della sua risposta quando le viene chiesta la sua professione. E ci raggiunge ora in linea Mauro Bigonzetti, per 10 anni direttore artistico della compagnia Ater Balletto, ora coreografo sempre di Ater Balletto, la principale compagnia di produzione e distribuzione di spettacoli di danza in Italia. Bigonzetti è il coreografo italiano più conosciuto all'estero, nonché il primo italiano a creare per il New York City Ballet. Buon pomeriggio, Bigonzetti. Buon pomeriggio a voi. Riconosce nella storia di Elena un percorso, ahimè noi, un po' obbligato per molti ballerini e ballerine del bel paese? Sì, io lo riconosco in pieno, anche perché insomma è stato anche un po' il mio percorso, con dei ritmi un po' diversi, però insomma è stato anche il mio percorso purtroppo. Bigonzetti, è vero che non è esattamente il suo settore, però la danzatrice Carla Fracci ha denunciato: c'è un ricorso selvaggio al precariato, servirebbero nuove regole. Che consiglio si sente di dare a un giovane o a una giovane che vorrebbero avviare una carriera nella danza? Espatriare oppure ci sono prospettive qui? I problemi sono che purtroppo se hai talento, se ami il tuo lavoro, se ami questo lavoro e hai un minimo di talento, devi andare fuori. Dico purtroppo, perché anch'io, io amo l'Italia, amo questo paese, però purtroppo anch'io vivo 9-10 mesi l'anno fuori per poter lavorare a certi livelli. A un giovane consiglierei di andare, senza star lì troppo a perdermi i romanticismi, direi proprio di andare. Bigonzetti, in Italia i contributi alla cultura ammontano a 1,8 miliardi di euro contro i 3 della Gran Bretagna, gli 8 della Germania e gli 8,4 della Francia. Il confronto è realmente impietoso. Lei ha lavorato un po' dappertutto, da Londra a Marsiglia, da Berlino a San Paolo, da New York a Lisbona. Cosa funziona fuori che non funziona qui? E non dovrebbe essere diverso, parlando dell'Italia, la patria della cultura a livello mondiale? È diverso, cioè sicuramente che sulla cultura viene investito meno. Non dico speso o investito, perché in cultura secondo me non si spende, ma si investe. E in più si spende e si investe male, nel senso che non ci sono regole, non ci sono leggi, non c'è progettazione, per cui quei pochissimi soldi stanziati per la cultura vengono anche spesi male, purtroppo. Cultura come investimento, e le dico di più, la recente edizione di Florence 2010, rassegna internazionale dedicata ai beni culturali, si è conclusa con un manifesto di 13 proposte, nel quale si evidenzia come per ogni 100 euro di incremento del PIL nel settore culturale si attivano 249 euro di PIL nel sistema economico generale. Manca, secondo lei, in Italia una visione della cultura come generatrice di business e occupazione, se proprio vogliamo vederla dal punto di vista economico? Ma certo che manca, nel senso che per esempio all'estero, in Francia, in Inghilterra, in Belgio, in Olanda, ma anche negli Stati Uniti è pieno di danzatori italiani, in tutto il mondo ci sono danzatori italiani, perché non potrebbero stare in Italia e lavorare in Italia, produrre in Italia e dare qualità? E se c'è qualità c'è anche investimento, su questo proprio non ci piove. Elena, hai una domanda per Mauro Bigonzetti? Conosco Mauro perché ho fatto il perfezionamento appunto all'Ater Balletto 10 anni fa, quindi volevo chiedergli qual è il suo bilancio 10 anni dopo la situazione della danza italiana. Che cosa che l'ha spinto anche lui a lasciare l'Italia, visto che lavora comunque molto più all'estero che in Italia attualmente? Un bilancio, insomma, roseo per alcune cose e drammatico per altre, nel senso che in Italia il bilancio sulla danza italiana è quasi impossibile, perché siamo veramente talmente pochi coreografi, talmente pochi, poche situazioni interessanti, per cui insomma faccio un po' fatica a essere positivo. Per quanto riguarda la mia esperienza privata, personale, con la Terballetto, per certi aspetti è esaltante. Abbiamo girato il mondo, abbiamo fatto i più grandi teatri, sempre con, insomma, con dei buoni riscontri. Però ecco, questo sono una cosa privata. Poi insomma, dopo 10 anni di direzione, purtroppo devo dire che mi sono esaurito completamente, perché lavorare in Italia è difficile, è duro, tutto diventa più complicato, e stavo anche un po' perdendo quello che poi era la mia mira principale, cioè la creatività, cioè di lavorare con la creatività. Se dirigi, se hai problemi organizzativi, amministrativi, perdi questa mira, ed è molto pericoloso per noi insomma che facciamo questo lavoro. Per cui ho lasciato, ho abbandonato, perché insomma in Italia si difendono poco gli artisti e si difende poco la cultura in generale. Non c'è un futuro da difendere, solo il presente, così cantava Daniele Silvestri nella canzone che abbiamo ascoltato poco fa. C'è un futuro per la danza in Italia, Bigonzetti, o possiamo a malapena difendere il presente? Farei un discorso più generale, c'è spazio e c'è un futuro per la cultura e per la danza, logicamente, non lo so, faccio molta fatica a essere positivo, spero che la danza e tutta la cultura non faccia la fine che sta facendo Pompei, perché insomma c'è questo rischio qua. Grazie a Mauro Bigonzetti, e domanda di rito anche per Elena Ciavarella: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Di espatriare, sicuramente, perché a prescindere da un ritorno possibile oppure no, insomma io penso che un'esperienza all'estero è sempre positiva ed è quasi necessaria, perché da fuori si vedono le cose diversamente, si torna sempre in ogni caso cambiati, diversi, più grandi, più consapevoli, e quindi sicuramente di espatriare. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire la nuova emigrazione. Oggi vi parliamo di Italo Emigranti, un sito web che raccoglie i video racconti dei giovani italiani espatriati. Saul Kai, autore del progetto. L'idea nasce a fine 2008, inizio 2009, quando mi trovavo in Erasmus a Tarragona, a 90 km da Barcellona, grazie a un, diciamo, contatto tra l'Università di Urbino e quella di Tarragona, e lì stavo realizzando un reportage, una tesi di laurea specialistica sugli italiani all'estero, intervistando 5 persone e poi presentando questo progetto. Successivamente, tornato in Italia, ho avuto l'idea di lanciare questo portale web che raccogliesse, un po' come sullo stile di YouTube, i racconti e le storie degli italiani che stavano fuori. Successivamente abbiamo avuto la possibilità anche di andare in Nord America, prima a Toronto e poi a New York, e così abbiamo portato avanti la possibilità di realizzare nuove interviste e video racconti. Voi avete creato una community dell'emigrante. Quante storie ci sono? Quanti personaggi in questa community? Al momento abbiamo più di una decina di interviste, 5 realizzate appunto in Spagna e le altre 9-10 realizzate tra Toronto e New York. Sono più che altro ragazzi tra i 25 e i 30 anni che hanno scelto di andare all'estero per differenti motivi. C'è chi magari ha seguito la compagna, chi invece è andato per un progetto di studio, chi invece ha abbandonato direttamente e è andato a iscriversi all'università proprio all'estero. Ma c'è un filo conduttore in questa nuova emigrazione? C'è una difficoltà di affermarsi in Italia? Purtroppo sì, perché ogni persona che intervisto, diciamo, mi racconta gli aspetti negativi. Il ricercatore ha la difficoltà che ha avuto nell'inserirsi nell'ambiente italiano, oppure la ragazza che a 26 anni a New York lavora per un gruppo pubblicitario e invece in Italia aveva molta difficoltà a inserirsi perché era precaria, oppure anche l'insegnante che abbandona il desiderio di inserirsi nell'ambiente italiano, sceglie di andare in Spagna, da lì vince un progetto e assume la cattedra. Quindi insomma questa difficoltà che vede in Italia, diciamo, per alcuni aspetti non diventa molto più semplificata all'estero. Gli immigranti italiani non sono solo dei numeri o cifre statistiche, ma delle identità, persone e vite. Scrivete sul sito. C'è forse un problema di considerazione nei loro confronti? Sì. Infatti noi puntavamo proprio su questo, raccontare le storie. Abbiamo puntato proprio sul video perché ci sono moltissimi blog o comunque siti, forum che parlano e raccontano e permettono agli italiani che sono all'estero di raccontarsi, ma secondo me tramite il video si può esprimere molto di più, si può esprimere anche un'idea, un concetto, un pensiero, e quindi raccontare, mostrare che queste persone hanno una faccia, hanno una storia, hanno una voce, permette appunto di sensibilizzare forse più il tema alle persone che, considerando il fatto appunto che gli italiani che vanno all'estero sono tantissimi, ogni anno aumentano sempre di più, quindi questa è una grande perdita anche per l'Italia. Progetti per il futuro? Noi speriamo francamente di portare avanti questo progetto, di poter intervistare sempre più italiani che stanno fuori, allargare la nostra rete,